Ed eccovi una poesia di Enrico Fruc che vi ricorda Cividale. E mi ricordi sempre che passan par borghi puin, denande chiavi di Zorut, se ben cogliere i frut, giugato lunga bonde, mi sentivi un ciosun dentro di e che non capivi. E cal doveve sei eredità dai viei, il sentimento nestre pur la mia. Mi pare in modi viodi sotto un arco del municipio tutti il dì in tar, i parruconi del caffè San Marco, e fur despiterie a comparì la cane lustre del mie di pane. Dopo cene d'unviar, mi tu si incaregonta al fogolar, intant che ta farsorie si cuievin slopetanti moron, nu contavin la storie di Attile, l'ombattiù per strade dal pulfar cui canon par drumarsi di dar. Di Gisulfo, che dentro de sopiere deve inciatati i due di doi di loro, del Vencul, del Cialciut, calvinive di gnoz sul covartor. Cividale conserva, unica in tutto il mondo, la messa dello spadone, che si celebra in Duomo il giorno dell'Epifania, dall'epoca in cui il patriarca stabilì in Cividale la sua residenza. Il diacono legge il Vangelo con l'elmo in capo e saluta il popolo alzando per tre volte la spada. Così ricorda la cerimonia il poeta Fruc. E in dono, se messe dal spadon. Il sorelli albateve da un lastron ad aldi ten color tal coro sui chiavei blanchi di un cialuro. Dulci volti in su, pieti in calzoni d'organo, che scomenci mi cantò l'organo al sune e al par che un uragan si spandi sulla fole e si dispiar di vongolan lontano. Poi i danzò i cantori e la funzion gli tutte quante musiche e splendor. Poi finalmente è con cialun in gale che appa in mano un spadon e al cialu su che il mar di in speciale da pizze schiarinate in genoglon. C'è differenza di che pua reglesia dal mio paese, con che i quattro stendard far sotto il mur, e la di furta resie che vendeve l'uvince savoiar. Il mio paese, va ben che Cividata gliere un eccitar, e il mio paese un bord di contadin, ma io non vares dat che il cantonut laiù, che pradarie sul nadison farnie, e perché ogni tanto, o levi sul quartin, a chialà la planure a tor, e il nadison calcor di astre marias, e quintri il cil turchin, fu la glesia da cis, il tor del mio paese. Festa dell'Epifania, che riporta, accanto ai riti religiosi, ai fuochi accesi sui monti e lungo l'argine del fiume, le nennie che si tramandano da tempo immemorabile, come questa antichissima, singolare e un po' scanzonata, che i bambini ripetono cantilenando. Capan, cavin, la luiagne tal ciadin, il ciadin si sfonderà, la luiagne col palprà. Pane e vino, segni dell'abbondanza, elementi primi della buona terra. E trattandosi di Cividale, non possiamo non parlare di vino, in omaggio appunto ai pingui filari d'uva di Spessa e di Iplis, di Corno di Rosazzo e del prossimo Coglio, le cui amene colline danno l'ottimo Tokai e il gustoso Merlot, gioia dei parati e fonte d'allegria. E accanto al vino non si può passare sotto silenzio la dolcissima gubana, che è nata qui a Cividale e che nessuno sa confezionare come le brave massaie di Borgo di Ponte e di Borgo Brossana, esattamente dosando uva sultanina e noci pestate, mandorle e pinoli, con il risultato di una straordinaria fragranza. Serena e cara città Cividale, ma anche sentinella avanzata d'Italia, patria di valorosi alpini. Col monte lo star bella e Anche di eletti ingegni, dallo storico longobardo Paolo Diacono all'attrice drammatica Adelaide Rittori, dai musicisti Jacopo Tomadini a Domenico Candotti, che al senso di misticismo che fascia ogni angolo della loro città natale trassero certo ispirazione per le loro composizioni musicali. Hanno legato al loro nome quello di Cividale, nome che oggi raggiunge tutti i continenti attraverso i piccoli di papà Vittorio Podrecca, con lui eterni emigranti friulani, amati e ammirati da tutti i ragazzi dai 3 ai 90 anni. Burattini, che sono ormai diventati cittadini del mondo, ma il cui cuore, che invisibile batte oltre le loro giunture di legno, è friulano. Meglio, friulano di Cividale. E Cividano è le mille mamme ponte di città. Abbiamo trasmesso Friuli nel mondo, Cividale del Friuli, 45esima trasmissione dedicata agli emigrati. Testo di Dino Menichini, adattamento di Ermete Pellizzari. Hanno collaborato Ottavio Valerio, il maestro Cozzarolo, Aldo Stecogna e il coro di Cividale. Musiche di Garzoni, Cozzarolo, Candotti, Tomadini e musiche popolari.